anche oggi il programma più bello della radiofonia nazionale, I Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Rieccoci qua, Filippo. Rieccoci qua. Vi tocca, cari ragazzi. Bentornati, bentrovati ai Fuori Posto, no? Fuori c'è il solleone, ma noi siamo qui. Siamo qui dentro, indefessi, faticatori, lavoratori, mentre voi, beate, voi state in vacanza, io, Umberto Alezio, a lavorare come due disperati qui a Radio 24. Ricordo Filippo Roma, brevemente, un inviato di successo, l'unico uomo che per vivere deve prendere calci in culo, giusto? Certo, pur di non lavorare sono disposto anche a prendere calci in culo per fatturare. E più viene menato, più viene pagato. Bravo, giusto? Sì, svegliamo questo meccanismo. A Mediaset ho un accordo molto personale, più calci in culo prendo e più vengo pagato. E io lancio questo gioco social, l'avevo lanciato in occasione della prima puntata. Se voi vedete il riccioluto Filippo Roma e gli date un calcio in culo, no, noi vi regaliamo ufficialmente la maglietta di Radio 24, va bene? Va bene, il gadget di Radio 24, a chi mi dà un bel calcio in culo, tanto sono abituato. Mi fa pure quasi un po' piacere, dico la verità, sono diventato anche un po' sadomasochista. Voglio la foto però, voglio la certo, foto. Foto è fondamentale. Il documento, la prova è fondamentale. Umberto, mi dispiace. No, mi dispiace prego, per te. Già vedo una mala parata. Mi dispiace per te, devo riaprire una pagina amara per la tua vita. Devo riaprire una ferita. No, fuori amore, Ariecco. Sì, fuori amore. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Tu ti accanisci con la mia vita privata, non è giusto? Sì, Umberto, ma non è colpa mia se gli ascoltatori si stanno appassionando alla tua vicenda amorosa. Non è colpa mia. Perché? Perché ci scrive un ascoltatore che si chiama Alessandro. Sono un attimo senza parole perché ogni volta che Andrea mi mette questa canzone lo so. Suscita qualcosa in me. She may be the beauty or the beast. Insiste. Insiste, capito? È cattivo. È coltello nella piaga. Però i nostri ascoltatori evidentemente stanno dalla tua. Sei diventato un caso nazionale. Tutti tifano per te. Sì, perché questo programma, diciamolo, era partito in sordina, no? Infatti adesso molti personaggi famosi vogliono intervenire, sì, lo sai? Sì, a proposito, so che vuole parlare con noi. Sì, la regia mi dice che c'è Tiziano Ferro in linea, però No, non ci interessa. Per il momento teniamolo lì, Tiziano, perché noi siamo il programma dei Fuori Posto, siamo il programma della gente comune. Sì, Tiziano Ferro è troppo famoso. Non lo so, che dici, lo vogliamo far intervenire, magari fa una due battute o... No, non mi interessa. Cioè, per il momento Tiziano Ferro... Che c'è di Tiziano Ferro di famoso, di canzone famosa? Ma due o tre, che ne so. No, ne ha fatte di famose, però che lo vogliamo fare... Guarda, semmai ditegli... Mi fanno cenni dalla regia che vuole intervenire Tiziano Ferro. No, ditegli però... di aspettare, magari di chiamasse domani. Non lo so, domani magari forse abbiamo un buchetto per Tiziano Ferro. Sì, dite che forse domani gli diamo udienza. Però quello si incazza, inizia a essere permaloso, poi... Cioè, che dici? No, non me ne frega niente. Dai, no, perché lui vorrebbe parlare un minutino anche lui di... Magari vorrebbe dedicare una cosa. Dai, facciamone entrare un attimo in diretta. No, Umberto, non sono d'accordo perché non ci interessa. Cioè, perché comunque Tiziano poi, guarda, lui è gentile, carino, io lo so, se la prende, eh. Sì, ma dai, adesso non interessa di Tiziano Ferro qui dentro, no? Ragazzi, accannate dalla regia. No, magari con gentilezza, dite, allora, guarda, Tiziano, no grazie. Tiziano, se abbiamo tempo, magari un minutino te lo concediamo domani. O dopodomani, perché non sono neanche sicuro per domani. Io tornerei a Fuori Amore. Ecco, Umberto, sì, Fuori Amore. Mi voglio autoflagellare. Mi piace questo tuo autoflagellamento. Allora, Alessandro Lafano ti dà un consiglio, molti ti scrivono per darti consigli. Ecco, l'unica cosa che non devi fare, mi raccomando Umberto, è l'improvvisata. L'ho provato sulla mia pelle. Un giorno, per riconquistare la mia ex, sono andato a fare un'improvvisata al posto di lavoro per chiederle di tornare con me. Che ho scoperto? Che il datore di lavoro... che era lì, era il suo nuovo fidanzato. Una tragedia. Ah, hai capito? Come si chiama questo nostro ascoltatore? Alessandro. Cara Alessandro, guarda, hai ragione, ma io ero talmente innamorato che lo sono ancora, e quindi ti dico che ero non sicuro, ma sicurissimo della fedeltà del mio amore. No? Sicuro, sicuro? Io ero sicuro, sicuro. Ma anzi, l'importante è che sei sicuro te. Colgo la palla al balzo, no? Per lanciare questa domanda, no? Ai nostri ascoltatori. Vi è capitato di fare un'improvvisata... dal vostro lui, dalla vostra lei, e a un certo punto siete rimasti sconvolti? scrivete ai fuoriposto@radio24.it. Volete anche scrivere sul nostro profilo Facebook, vi aspettiamo, i fuoriposto. Oppure lasciate un messaggio alla segreteria telefonica 0246524182, oppure più semplicemente WhatsApp o SMS al 349 2386 666. Allora, Umberto, oggi scusa, Filippo, prima di a te è mai capitato di fare una sorpresa, no? E di essere sorpreso tu? No, non mi è mai capitato, per fortuna. Ah, per ora no. Ma per ora no, sai, per ora la mia storia sentimentale è molto meno tormentata della tua. Io sono molto più banalotto. Sì, più il tormento è per Cristiana, per tua moglie. Sì. Però, insomma, quando finisci qui alla radio e torni da Cristiana, mi raccomando, telefona sempre, che non si sa mai. Non si sa mai nella vita. Non si sa mai. Proprio è un grande classico tornare a casa e trovare la moglie chissà con chi. Però, insomma, i fuoriposto tratta anche economia, no? E temi seri, no? Non sembrerebbe, perché siamo ietti a parlarne, non siamo assolutamente credibili, è vero, ma anche noi ci occupiamo di temi seri, come ad esempio oggi, questa mattina, che parliamo di persone che un posto sì l'hanno trovato, ma l'hanno trovato all'estero. Sì, perché qui in Italia si sentivano fuori posto, perché... Sai perché? Per la crisi economica, no? Gente che ha lavorato una vita e poi qui in Italia si sente fuori posto perché costa talmente tanto pagare l'affitto, le bollette, la luce, uscire e andare al ristorante. Certo. Perché, diciamolo, anche uscire una, due sere a settimana e andarsi a mangiare una pizza ha un costo, ma secondo me è anche un diritto, no? Di tutti, no? Però purtroppo, poiché il livello delle pensioni in Italia è molto molto basso, questo più che un diritto diventa un privilegio. Un privilegio, sì. Dovrebbe essere un diritto, perché ci sono persone che hanno lavorato una vita e quindi per una vita hanno pagato e versato i contributi. Lasciamo stare che c'è gente che guadagna le cosiddette pensioni d'oro e noi ne sappiamo qualcosa, sì, no? Sì, ne sappiamo qualcosa, però insomma di pensioni d'oro insomma magari ne parleremo in una delle prossime puntate. Oggi ospiteremo chi è dovuto letteralmente scappare e trovare il suo posto all'estero, no? Ovvero quei pensionati che vanno a vivere all'estero per avere un tenore di vita più agevole, no? Più facile. Magari decoroso. Sì, decoroso. C'è Franco in linea? Sì, buongiorno a tutti, radioascoltatori da Sofia, Bulgaria. Ah, ciao, Bulgaria, sei in Bulgaria. Sì, Franco è andato in Bulgaria perché dopo aver lavorato una vita... Qui non ce la faceva a campare, giusto? Esatto, 41 anni di camionista, non arrivavo al 20 del mese pagando affitto, bollette, macchina, mangiare in Italia. Porca miseria. E quanto prendi di pensione, Franco? Allora, io prendevo in Italia 1.100 euro, però per le convenzioni Italia-Bulgaria un pensionato della ditta privata dopo 6 mesi può richiedere la pensione lorda che aumenta al 30% e non paga più l'IRPEF allo Stato italiano. Questa è una notizia. E quindi tu praticamente con 1.100 euro in Italia facevi fatica a arrivare fino al 20 del mese, mi hai detto, quindi arrivavi a stento alla terza settimana, giusto? Confermo, invece qui con 1.500 euro sono 3.000 leva e uno stipendio di un direttore di banca, quindi io vado quasi sempre almeno 3-4 volte alla settimana al ristorante, non in pizzeria. E prima di andare in Bulgaria, dopo il 20 del mese, come campavi? Dovevo andare, dopo tanti sacrifici messi da parte, qualche soldino in banca, a prelevare per arrivare al 30 del mese. Quindi una vita faticosa, grama. Poi oltretutto calcolare che ho lavorato 41 anni sulle strade. Adesso sono in pensione, dovrei meritarmi la serenità e la pace che stiamo arrivando all'ultimo traguardo con la bandiera a scacchi, invece in Italia non era così. Senti, da quanto tempo stai in Bulgaria? Dal 2009. Mi sembra di capire che... Tu hai trovato il tuo posto ideale a Sofia, no? Per avere una vita decorosa, giusto? Sì, giusto, anche perché io sono nato a Milano e quindi Milano è una metropoli e Sofia è una capitale europea, a me qua Sofia mi sembra di essere a Milano, uguale preciso. Ah, pensa, quanto paghi d'affitto a Sofia per un appartamento di 50-60 metri quadri? Io ti do il mio esempio, io sono in un appartamento di circa 75 metri quadri, sì, e pago sui 250 euro al mese. Ah, caspita. Pochissimo, effettivamente, per essere una capitale. È una cena al ristorante, diciamo un ristorante medio per due? Allora, qui ci sono tanti ristoranti che sono classificati, diciamo, per farci capire a stelle, 1, 2, 3, 4. Un ristorante medio a 3 stelle, cucina bulgara, fa di tutto compreso, non escluso la birra, tutto, anche la grappa, tutto compreso, siamo dai 6 ai 7 euro a pasto. Ah, pazzesco, cioè. Ma una curiosità, che si mangia in questi ristoranti? Com'è la cucina bulgara? Ma guarda, io ho 7 anni che mangio la cucina bulgara, come dico a tutti gli italiani, non sono ancora morto. Vabbè, meno male. Senti, e invece Franco, tu quando eri qui in Italia, no? Ti sentivi un po' messo da parte? Ti sentivi fuori posto? No, non mi sentivo fuori posto. Ero fuori posto. Lo Stato italiano mi ha costretto a andarmene. Adesso ti manca l'Italia? Cos'è che ti manca di più? Niente. Quindi sei convinto, una scelta convinta la tua, non torneresti indietro? No, no, assolutamente. Tu hai anche una compagna, hai trovato una compagna all'estero, lì a Sofia? Sì, sì, confermo, sì. Una compagna tua coetanea, una compagna più giovane? Ma diciamo che io non ho paura a dire, io ho 67 anni e la mia compagna ne ha 60, è bulgara e parla l'italiano meglio di me. Ah, ok. Perfetto, hai trovato tutto, quindi hai trovato tutto, l'amore. Che ci devo fare, ragazzi? Bravo Franco, sei stato bravo a trovare il tuo posto. Senti, per tutti i pensionati che ci stanno ascoltando, no? O per tutti quelli che, insomma, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, perché poi magari parliamo anche di persone che hanno avuto la pensione a 50 anni, a 55 anni, insomma. E tu che consigli daresti? Io, prima di tutto, preciso una cosa, che qua un pensionato italiano, marito e moglie, che prende solo la pensione, il marito con 900 euro vivono degnamente, 900 pagando tutto, affitto, andare ai ristoranti, mantenere la macchina, eventualmente anche fumare, eccetera. Il consiglio che do ai pensionati italiani che ci stanno ascoltando questa mattina è questo: non leggete niente, non vedete niente, perché scrivono tante di quelle stupidate della Bulgaria. Ad esempio, ho ricevuto un'email: voi in Bulgaria avete la lavatrice? Non so io se sono domande da fare, comunque la teniamo buona. Allora io dico sempre, venire qua personalmente 3-4 giorni a vedere, se poi voi volete il mio appoggio io vi do il mio appoggio, ma potete anche girare per i cavoli vostri, nessuno vi obbliga ad avere l'appoggio. Però il problema grave per un italiano qua è la lingua, perché questa è cirillica, non è latina. Complicata. Però se uno spizzica un pochettino l'inglese a Sofia non ha problemi. Bene, bene, quindi è un consiglio. Senti, molto preciso. Senti, tu riesci a fare anche le vacanze? Vacanze? Ma vado 3-4 volte all'anno, vado alle cure termali, vado al mare e vado in montagna. Hai capito? Fai una vita da signore, fai. Va bene, senti, cosa vorresti dire? L'ultima cosa, cosa vorresti dire a chi ci governa qui in Italia? C'è qualcosa da dire? Che c'ho tante cose da dire, che mi sa che la vostra trasmissione non finirà mai. Senti, ti ringraziamo Franco, grazie per Ciao, essere Franco, stato qui. Stai bene. Ci sentiamo presto, insomma, magari ci teniamo in contatto. Umberto, okay. Vedi, una persona che ha trovato il posto perché in Italia non E non è l'unico, più. Franco, lo sai? Cioè, ci sono tantissimi pensionati che purtroppo, non arrivando a fine mese, e questa è una cosa brutta, no? Perché penso che un paese civile, no, dovrebbe curare, investire sui giovani, ma anche curare e proteggere chi ha dato tanto al paese stesso. Certo, no? Che dovrebbe godersi la sua pensione dove è nato, sì, dove sì, è vissuto. Sì, sì. Quindi è un fenomeno questo. È un fenomeno. Con noi adesso c'è Antonio, che è un altro pensionato, sì. Che ha lavorato per una vita, aveva un bar, se non erro, e non arrivava a fine mese, quando è andato in pensione non arrivava a fine mese. Ci sei, Antonio? Eccomi. Ciao Antonio. Ciao Antonio, benvenuto. Salve a tutti. Ciao Antonio. Benvenuto ai Fuori Posto. Senti, il tuo posto ideale adesso è all'estero, giusto? Perché in Italia ti sentivi fuori posto. Dove stai? Il mio posto ideale oggi è Pazarjik, a 100 km da Sofia. Quindi anche tu stai in Bulgaria? Sì, sono venuto qui. 10 anni fa mi ci ha portato un amico che mi diceva sempre che ma si spende poco. Dico, va bene, andiamo, vediamo. Sono arrivato e non sono più tornato. Non sei più tornato, ma perché prima in Italia che vita facevi? Avevi difficoltà ad arrivare a fine mese? Ma io nella vita ho sempre vissuto abbastanza bene, diciamo. Chiamiamolo ceto medio. Quando sono andato in pensione mi sono ritrovato poi con 820 euro. Ne pagavo 650 solo per una camera e cucina. E come facevi ad arrivare a fine mese? Non ci arrivavo, infatti. Mm-hmm. Sono andato via dal bar, ho pensato bene di trasferirmi subito in Bulgaria. Ecco. Dico, proviamo. Ho provato ed eccomi qua. Immagino il cambiamento sia stato in positivo. Cioè, adesso com'è il tuo tenore di vita in Bulgaria? Tenore mio di vita è un tenore di vita di una persona che sta tranquillo, che sta sereno, che non ti dico agiato perché sarebbe troppo, però che non ci manca niente. Questo per una persona che ha 75 anni, che ha lavorato tutta la vita, si ritrova così tranquillo. Senti, è tutto nella vita. Diciamolo, tu sei andato via a vivere in Bulgaria con tua moglie, giusto? Io avevo una compagna polacca già in Italia, sì. Perché ero separato. Sì. Siamo venuti insieme e insieme stiamo ancora, adesso ci siamo anche sposati. Ah, ottimo, quindi avete coronato il vostro amore in Bulgaria. Senti Antonio, ma l'Italia ti manca? L'abbiamo chiesto anche a Franco, perché uno se la fa questa domanda. Sì, la vita diventa migliore, ma poi c'è un rimpianto, un ricordo dell'Italia. Io, ognuno di noi è fatto differente uno dall'altro. Io ho sempre detto che se potessi vivere in Italia ci verrei anche a piedi. Quindi ti manca certo tanto? Ma certo che manca, perché mancano gli affetti, mancano i figli, mancano i parenti, mancano gli amici, manca l'Italia, la nostra Italia. Quello che non ci manca sono solo i politici, quelli certo. Non ci mancano. Il resto, ce l'hai un po' con la politica, mi sembra di capire. Ma ce l'ho con la politica, chi è che ce l'ha oggi con la politica in Italia? Con tanta gente che non arriva a fine mese. È come se ti avessero obbligato ad andare fuori Italia, insomma, per te non è stata una scelta. Mi avessero obbligato, mi hanno obbligato, io mi sento, ma come ti posso dire, esiliato, io mi sento esiliato, visto. Come facevo a vivere con 820 euro, me lo dici? No, non si poteva vivere, sono arrivato qui, non ho problemi ad arrivare a fine mese, e questo per una persona che ha lavorato tutta una vita, arriva così a fine mese senza problemi. Ma io ho fatto, è come fare 14, non 13. Senti, con i tuoi figli ti mancano? Riesci a sentirli? Riesci a vederli? I miei figli, uno l'ho sentito mezz'ora fa, o ci sentiamo per telefono, o ci sentiamo su Skype con mio fratello, ci sentiamo spesso, quindi è come stare vicino. Poi d'altronde, volendo venire in Italia, è un'ora e mezza di viaggio, di aereo, con 50 euro se torno in Italia. Senti, a parte i figli, chiaramente, cos'è la cosa che più ti manca dell'Italia? Che mi manca? Mi manca l'Italia. Mi manca l'Italia. L'Italia per come siamo fatti noi, per come... Antonio, sentiamo dalla tua voce che ti sei commosso, sì, vero? A parlare dell'Italia. Ma per forza, io ho vissuto 51 anni a Roma. È vero che quando sono andato via sono venuto qui in una cittadina dove calma, a dimensione d'uomo, però Roma è sempre Roma, l'Italia è sempre l'Italia, quello che troviamo in Italia non si trova in nessun'altra parte del mondo. Antonio, non volevamo farti piangere. No. È carino Antonio, assolutamente, è solo il ricordo mi porta a queste commozioni, mi scuso io. No, non ti devi scusare, se non scusare le persone, i politici che ti hanno costretto a fare questa scelta, no? che ti ha pesato. Ma i politici, però questi politici, ricordiamoci che siamo noi i primi che li votiamo, quindi in questo ci rifletto e dico, ma perché non cambiano mai le cose? Forse dovremmo cambiare noi per primi. Sono pienamente d'accordo con te Antonio, veramente. Antonio, noi ti ringraziamo e ci scusiamo nuovamente se ti abbiamo fatto commuovere dell'Italia, insomma. Ma sono felice di averti sentito e parlare dell'Italia, io ci parlerei tutta la vita. Senti, noi ti lasciamo con una domanda, no? Ti facciamo un'ultima domanda. Chi fosse nella tua condizione, no? In Italia, cioè quella di pensionato che non arriva a fine mese e volesse fare la scelta che hai fatto tu, cosa deve fare? Cosa gli consigli di fare? Guarda, noi oltretutto adesso nel tempo siamo riusciti anche ad avere un patronato qui. Mia moglie è proprio responsabile del patronato, per cui chi vuole, basta che si rivolga all'ambasciata o a qualsiasi consolato, all'IPS stesso, e gli danno il nostro indirizzo, e chi vuole venire qua li possiamo consigliare, li possiamo guidare per tutto quello che riguardano le pratiche burocratiche. Va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie Antonio, grazie tante. Niente, e a presto, a presto. Grazie mille, e ci auguriamo che insomma prima o poi l'Italia possa ritornare a essere la tua nazione, insomma. E io dico sempre viva l'Italia. Viva l'Italia. Un abbraccio Antonio. Un abbraccio da tutti noi. Ciao, grazie Antonio. Ciao, grazie. Ciao. Niente, abbiamo fatto commuovere Antonio, porca miseria. Mi dispiace, però insomma mi auguro che anche per chi ci ascolta da casa, insomma oggi è una puntata che ha preso una piega un po' particolare. Sì, siamo partiti con le tue lacrime d'amore. Sì, questo sì, blocco finisce sì, con in le lacrime realtà, di Antonio. Le lacrime di Antonio insomma toccano molto, no? Perché sì, insomma chi ha dato tanto al paese, insomma, e poi è costretto ad andare via all'estero, insomma forse una riflessione, non dico la classe politica ma tutti noi insieme, forse dovremmo farla, no? Prima di lasciarvi alla pubblicità, vi diamo alcuni indirizzi per poterci contattare, che sono iforiposto@radio24.it, la segreteria allo 0246 524182, e Umberto, diciamo gli sms WhatsApp 349 2386 666, oppure potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale, che è iforiposto. Noi facciamo qualche minuto di pausa e torniamo sempre qui su Radio 24 e Fuoriposto. A tra poco. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. I fuori posto. A proposito di fuori posto, c'è un nostro amico, no? Che ormai abbiamo conosciuto da quello che è, come dire, il padre di tutti i reality, no? Che è il Grande Fratello, giusto? Certo. Che ha vissuto un momento di grande popolarità, poi ha avuto una depressione, no? E poi ha trovato posto, no? Quindi dal Grande Fratello è passato, lui dice, al Grande Porcone, no? Perché è finito dal Grande Fratello al mondo dell'hard, no? Ho capito di chi stai parlando, ce l'abbiamo in linea con noi. Nando Colelli, ci sei? Eccomi qua. Che buon pomeriggio. Benvenuto ai fuori posto. Allora, ricordiamo chi sei, Nando. Tu sei Nando del Grande Fratello 11, famoso per la sua storia d'amore travagliata e purtroppo non a lieto fine. A proposito di storia d'amore, famoso, fine male, cioè, con Margherita, vi ricordate? Michael Jackson, cioè, insomma. Però vi ricordate che la storia di Nando e Margherita aveva colto l'attenzione di tutti gli italiani, poi purtroppo questa storia d'amore andò a finire male, ma tu eri diventato il personaggio più importante di quel Grande Fratello, Nando. Un momento di grandissima popolarità. È uno che rimaneva simpatico e tutto, ma ho preso ma ha accolto molto bene la gente. Qual era il segreto della tua simpatia? Perché la gente ti amava? Perché ero così, dice un sacco di stronzate, ecco perché. Ah, mi sembra un ottimo motivo. Cioè, basta dire quello, allora, a romanaggine mia. Il caro vecchio Nando, la tua romanaggine? Sì. In che senso? Capito. Cioè, comunque, allora, mi piace, per la stessa teoria, no? Se basta dire stronzate, noi dovremmo essere amatissimi. Dovremmo essere veramente famosi come Michael Jackson. Vabbè, ma noi romani siamo così, torniamo, gli piace questa parlata. Rimani simpatico, io non so di che l'altri, però ci sono altri dialetti che rimangono un po' più freddi, invece il romano, cioè, so, il veneto è antipatico. No, salutiamo tutti gli amici del Veneto. No, beh, quelli del Veneto, cosa mica so di. Ma che ce l'hai con quelli della Val d'Aosta, di la verità. Che sei razzista. Comunque, facciamo un passo indietro. Nando, tu hai allora, tu hai avuto un momento di grande popolarità al Grande Fratello, no? Giusto? Sì. Poi sì, hai sofferto di quella che si chiama, no, depressione da reality. Che cos'è la depressione, sì, da reality? No, allora, la depressione da reality funziona che tu a un certo punto stai all'apice della cosa, no? Della cosa, certo cosa? Punto, de che? L'apice, come lo posso dire? Che dimmi, fai serate, vai in giro per l'Italia. Sì, si chiama successo. A un certo punto... A un certo punto finisce tutto, cioè non ti ritrovi da solo, da quando c'avevi tanta gente, ti ritrovi da solo a casa. E significa che non ti si fila come... Non ti si fila più nessuno, capito? C'è stato quel momento che... Ed è brutto. C'è il boom, poi dopo finisce, è normale. Io mi ricordo che tu avevi anche un addetto stampa, no? Tuo zio ti faceva da addetto stampa, giusto? Tu nonno andavi nelle discoteche, mi ricordo, e frotte di ragazze ti fermavano per le foto. Poi c'è tutto, cos'è successo? Nessuno ti ferma più per strada. Qual è il passaggio dalla fama a essere quasi degli sconosciuti? Qual è il momento? Come lo vivi questo momento? No, adesso vivo tranquillo. Adesso ripeto, però cos'è che ti mancava? Il fatto che la gente non ti fermava più per strada? Ma no, ma non era per manco quello. È una cosa che... perché quando guadagni un sacco di soldi, no? Sì. Poi dopo definiscono. Si sputtanati tutti i soldi? Certo. Che c'hai fatto con i soldi che hai guadagnato? Scusa, Nando. Mi sono divertito. In che modo? Uno a 23 anni si diverte. Che hai fatto? Tipo, te li sei sputtanati come? Vacanze, donne. Donne? Hai pagato le donne? Donne a pagamento? Donne a pagamento? Ma no, vacanze con amiche. Andiamo in barca, andiamo di qua. Pagavi tutto te? Capito. Certo. Quindi fai pagare le donne. Io sono un galantuomo, no? Un galantuomo, so. Bravo. Ma ti manca questa televisione, Nando, a distanza di anni? A distanza di 5 anni ti manca la fama televisiva? La verità... Sto tranquillo perché adesso ho attraversato la mia... il mio nuovo mondo, il mondo dell'art, capito? Il tuo nuovo, quindi hai trovato un posto da che eri disoccupato, quindi dal Grande Fratello. Ho perso che 2-3 mesi un attimo di svalvolamento. Sto svalvolamento per quanto ti è durato in tutto? Ma poca roba, 2-3 mesi, una cosa così. E poi hai pensato bene di fare cosa? No, ho pensato perché sempre da piccolino mi appassionava i film hard. Ho provato alla fine da piccolo c'è chi sogna di fare il pompiere, di fare il calciatore, di fare la ballerina, e Nando sognava di fare l'attore. Allora Nando, ma torniamo a noi, come inizia, come avviene il tuo debutto nel mondo dell'hard? Chi è che per primo ti adocchia? Come nasce questa cosa? Allora, ma mi ha adocchiato il povero Roberto Schicchi. Il povero? Roberto Schicchi, sei sicuro Roberto? Riccardo, la buonanima di Riccardo Schicchi. Riccardo, scusa, produttore, grande produttore del porno, grande, no? Produttore di Cicciolina, colui che ha introdotto il porno in Italia. Di Moana Pozzi, no? Moana Pozzi, c'è stato un sacco di film. Ecco, raccontaci, ti ricordi qualche titolo? Sì, ho fatto La Bella e Porcone. No, ma aspetta Nando, ripercorriamo con calma, perché questa è una carriera da raccontare passo per passo. Però La Bella e il Porcone è bello. È bello, quello è il punto d'arrivo. Sì. Ma ascolta Nando, come avviene il primo incontro con Schicchi? Cosa ti fa, un provino? Sì, ha fatto un provino e... In cosa costi... Non sono andato tanto benino. Non perché? Non sono andato benino, ho avuto... Che è successo? La reazione della prima esperienza, no? La reazione? Poi, cioè, aspetta... La reazione non funzionava. Poi dopo cosa non funzionava? L'arnese, che sono un mese di anno. È una metafora. Non scendiamo troppo nei dettagli. Vabbè, io poi? Quando è tagliato, tranquillo. Insomma. Ho conosciuto una produzione italiana, l'FM, che mi ha permesso di fare i film. Ancora sto continuando a lavorare con loro. Ho iniziato con La Bella e il Porcone. Ah, quindi La Bella e il Porcone è il tuo primo film. La Bella e il Porcone è il tuo primo titolo di successo, giusto? Sì. Allora, posso sapere la sceneggiatura della Bella e il Porcone? Sì, come no. La sceneggiatura l'ha creata Max Bellocchio. Sì. Ecco, di cosa parla? Questo film? Era un porcone, a un certo punto esce, vedo la principessa. Cioè, in che senso era un porcone, scusa? Spiegaci meglio. Era un vestito da porco. Ah, vestita come un maiale. Un maiale. Ah, ok. E la principessa, lei scende per vedermi, mi dà un bacio e divento un principe. E poi che succede? Io con il cavallo la vado a prendere e poi la porto nella stanza. E poi succede... Vabbè, quello che succede, quello insomma, succede lo mettiamo. Quindi io farei un piccolo salto, no? È una storia d'amore anche sì, intanto, sì, intanto... Ascolta Nando, facci capire una cosa. Il Pollino Koschinski andò così e così. Questo fu il tuo debutto, no? Come andò la tua prestazione in occasione della Bella e il Porcone? Sì, là andò. Quello è il mio primo film che mi ha dato una bella botta. Francesca da Bari no, ci dice: Anando, ma tu sei vero? Certo, sono vero, sono proprio profilo, Nando Colelli vero. Ah, Nando Colelli, quindi facciamo così, tutti qui, peraltro anche noi, no, con i nostri potenti mezzi e i potenti mezzi di Radio 24, abbiamo un profilo Facebook, no? Addirittura? Sì. Non me l'aspettavo. I fuori posto. Ah, no? Molto semplice, come il titolo della nostra trasmissione. Quindi, chiunque vuole gossip, news, anticipazioni, no? E ci trova sulla pagina ufficiale dei fuori posto, no? Certo, quindi tornando alla filmografia di Nando, La Bella e il Porcone è il tuo primo film. Qual è stata la seconda pellicola? La seconda pellicola ho fatto... La seconda? VIP, Successo e Potere. VIP, Successo era... e Potere? Sara Tommasi, sì. VIP, Successo e Potere, quindi, ma è un film che parla un po' dei problemi della società contemporanea, dei giorni nostri. Sì, di tutto. Cioè? Quello è stato un mezzo a parco, un po' un film così, tranquillo. Poi dopo... Un mezzo, scusa, non ho chiuso, un mezzo? Un mezzo a parco è stato. Ah, in mezzo a un parco. Carino. Sì, sì. Che vabbè, poi andiamo avanti. Lei è la mia padrona, capito? Ah, questa è la trama, sì. Prego, racconta, Nando. Stavo in mezzo, poi diventa la mia padrona questa che incontro, io le vado a fare la servitù a casa. Immaginiamo e dopo, il finale. Mentre il marito esce da casa... Io mi bombo lei, capito? Vabbè, abbastanza chiaro. Io andrei avanti, no? Non voglio chiedere cose di bombare, però insomma lo possiamo tutti immaginare. Solo una cosa, in questo film chi era la tua partner? No, quello era Sara Tommasi. Quindi come tutti, caro Filippo, come certo. Tutti gli esordi, no? Poi arriva anche il nome... Di successo, il nome, no? Importante. Cioè la coprotagonista importante, no? Quindi oltre Nando Colelli sarà Tommasi. Senti Nando, ormai sei tra i più richiesti nel mercato dell'hard, giusto? Sì, adesso lavoro pure con Rocco. Con Rocco? Mazza, è come per un giocatore andare a fare una partita con Maradona. Cioè... Bravo, quello. Ormai è quello, sì. E non c'è avuto, non c'è avuto il complesso di inferiorità, sai, chiunque di noi. No, tranquillo. L'importante è che stai sempre sul pezzo, capito? Non è interessante quello che sta vicino. Perché poi è normale che trovi chi ce l'ha più, come c'è, chi ce l'ha più big, chi ce l'ha più medio, chi ce l'ha. Capito come? Tu come ce l'hai, giusto per capire più o meno, senza trascendere. Mi difendo. Te difendi. Adesso sei fidanzato? Adesso no, ma adesso ho deciso stop alle donne. Perché? Come stop alle donne? Cioè diventi, passi dall'altra sponda? No, quello no, stop alle donne birichine, capito? In quelle che donne che la danno troppe facili. Non ti piacciono quelle? Adesso ci parlo con le... Cioè, tu vuoi una ragazza seria, Nando? Ti vuoi fidanzare seriamente? Ma vorrei, però con il mio lavoro è difficile trovare una ragazza per... Che è brava, capito? Senti, facciamo allora... una cosa. Proviamo. Allora, noi dei fuori posto ti diamo la possibilità di fare un appello, no? A tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, a tutte le nostre ascoltatrici. Certo, no? Perché Nando è un bravo ragazzo e vuole fidanzarsi con una ragazza seria. Allora, parte subito il nostro momento romantico e tu c'hai 30 secondi per fare un appello per trovare la fidanzata ideale. Vai. Allora, io dico ragazze, quando state con un uomo non cercate di darla subito perché non serve, quelle ragazze un po' non serve, diciamo, potrebbe essere utile. Cercate di essere voi stesse tranquille, tanto vi deve far tirare al collo, quello l'uomo si innamora, capito? Certo. Troppo facile. Bellissimo, ragione. Non serve, io l'ho imparato questa cosa. Cazzo, abbiamo anche un Nando un po' filosofo, no? Un po' filosofo, un po' impegnato. Non serve darla subito, è chiaro. Nando, un motivo, spiega alle ragazze perché... Devi capirle le donne, devi capire, è bello capirle, sentire il loro profumo. Nando, guarda, spiega, guarda, spiega le ragazze. Mi sto emozionando, veramente. Spiega le ragazze perché dovrebbero stare con te. Cosa puoi dare tu a una ragazza? Ma io calcola, io la mia ragazza la faccio stare bene in tutto. Tutto? In tutto, per fortuna. Non gli faccio manca niente. Cioè, tipo, però, che cos'è che non le fai mancare? Sono molto, cos'è che non le fai mancare? Quello che vuole fare, andiamo, facciamo. Tipo, per esempio? Tipo, vediamo quello che c'è da fare. Poi dopo prende come mi trovo bene con una ragazza, capito? Però comunque la ragazza mia sta sempre al primo posto. E questo ti fa onore, Nando, applausi, dai. Applausi a Nando, veramente. Applausi a Nando perché la ragazza sta sempre al primo posto. Adesso si può criticare, si può dire, però è una bella frase, no? La mia ragazza sta sempre al primo posto, no? E poi Nando è disposto a fare sempre tutto. Anche io vorrei una che... Insomma. Nando, una curiosità prima di lasciarti, ma quanto guadagni a fare l'attore porno? Adesso la media sono 300 euro a scena. Quindi è un film, una scena, quindi 300 euro per un film. Ammazza. La crisi ha colpito anche il mondo dell'hard, pensa. Sì, prima si guadagnava. Vedi, noi facciamo anche un'analisi, siamo a Radio 24, sì, quindi... Sono analisi economiche, sociologiche. È un'analisi economica e sociologica, no? Cioè, la crisi ha colpito anche il mondo dell'hard, giusto? Sì. È stato un piacere, abbiamo capito che per un momento eri fuori posto perché eri depresso, non ti pensava più nessuno, ma per fortuna adesso hai trovato il tuo posto ideale, no? Che è quello di stare nel mondo del porno, giusto? Certo. Ok, perfetto. Va bene, faccio un sacco di cose. Ci fa piacere, Nando, grazie di essere stato con noi, Nando, un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Eccolo qui, Nando, il grande fratello al mondo dell'hard. Hai visto? Anche Nando, a suo modo, no? Può piacere, non può piacere, si può dire che è giusto, non è giusto, insomma... Ci piace ascoltare, no? Le storie non scontate, non banali. Sì, perché a noi le cose che stanno a posto non ci piacciono, sono noiose. E anche voi che ci ascoltate, diteci cosa ne pensate di Nando o se anche voi avete attraversato un momento difficile, di depressione o di altro. Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook ufficiale I Fuori Posto. Vi aspettiamo, scrivete e adesso è il momento di Strada in Diretta. I Fuori Posto. Bentrovati sempre qui su Radio 24, noi siamo i Fuori Posto. Sempre qui, Filippo Roma e Umberto Alezio. Allora, caro Filippo, quando è che hai perso la tua verginità? L'ho persa, ahimè, molto tardi, a 18 anni. Come? Raccontacelo, che chi ci ascolta è curioso. Allora, dopo anni di astinenza forzata, perché io volevo fare, ma erano le ragazze... Non avevamo dubbi. Non volevo avere non avevamo dubbi. Con me, sempre un grande amico. Nel marzo dell'88 sono andato in settimana... Anni fa. Avevo 18 anni, ero disperato perché avevo veramente superato ogni limite, perché i miei amici l'hanno fatto molto prima di me. Vado in settimana bianca, avevo 18 anni, e incontro una santa, una ragazza di 27 anni, ancora me lo ricordo, del Lago Maggiore. Questa ragazza, miracolosamente, si è imbaghita di me. Tratto da una storia vera, il racconto di Filippo Roma. Si è miracolosamente imbaghita di me e la sera stessa mi ha invitato nella sua stanza. Ecco, Filippo ha perso la verginità. Aspetta, ma tu? Ma guarda, io molto più semplicemente. No, ma io molto più semplicemente ho pagato. No, scherzo. A che età, dici? Ma io credo tardi, sai? Non si capisce il perché, forse sì. Ma credo verso i 16-17. Ah, beh, tardi, beato te. Ero in un villaggio turistico. E avevo capito che l'unico modo per perdere la verginità era andare nei villaggi turistici, se no, dove per la legge dei grandi numeri qualcuno ci casca, no? Ma non parliamo di me e di te, esatto. Parliamo di persone che, pur avendo la possibilità, perché ragazzi, giovani, prestanti e tanti, hanno scelto di praticare l'astinenza sessuale. Ah, proprio l'astinenza? Sì. E in Italia si è creato un vero e proprio movimento, si chiama Purex, all'inglese, no? Un po' Purex. E il capo di questo movimento è Stefi, una fuoriposto per eccellenza. Ciao Stefi! Ciao ragazzi! Sì, in effetti è abbastanza fuoriposto. Stefi, tu non fai sesso. Da quanto tempo? No, io lo faccio perché sono sposata. Ah, ecco, però non lo facevi prima del matrimonio, giusto? Sì, noi abbiamo fondato questo movimento che si chiama Purex, che noi non pratichiamo l'astinenza sessuale, la pratichiamo semplicemente prima del matrimonio, perché noi crediamo che la sessualità si possa, che si possa godere della sessualità all'interno di un patto, che è il matrimonio. Ecco, quindi... perché è importante non fare sesso prima del matrimonio? Che male c'è nel fare sesso prima del matrimonio? Non parliamo di male o bene, noi semplicemente ci atteniamo a dei principi che sono scritti nella Bibbia. Noi crediamo che questi principi possano essere attuali, quindi abbiamo deciso di metterli in pratica, quindi crediamo che Dio abbia meglio per noi e che a un certo punto ci abbia dato dei consigli da seguire, che questi consigli siano buoni per noi. Senti Steffi, tu hai fondato questo movimento con tuo marito, no? Dove sì. Convincete le persone praticamente a praticare l'astinenza sessuale prima del matrimonio. Se tu dovessi convincere, no, un noto maniaco sessuale come Filippo Roma a praticare l'astinenza, cosa gli diresti? Allora, noi convincere è un termine sbagliato, perché noi stiamo andando... Vabbè, però in pratica quello è, voi convincete, no? Cioè, tu pensa che c'hai un maniaco sessuale come Filippo Roma e lo devi convincere a praticare l'astinenza. Non è proprio un maniaco sessuale, però, no, eh? Roma, non gli potrei mai dire pratica l'astinenza sessuale. Prima di dirgli questo, dovrei dirgli: Filippo, sai, Gesù può cambiare la tua vita e può cambiarla come l'ha fatto con la mia, con quella di tanti altri ragazzi. E detto questo, ti dirò: ci sono tanti benefici che lui ci può dare se quando noi lo seguiamo. Ti direi questo, non potrei dirti pratica l'astinenza senza aver conosciuto in profondità, aver avuto una relazione con Dio. Ti risponde perché... Filippo. Filippo che non mi hai molto convinto, ma io proprio ti rispondo in questo modo. Ma... È come convincere Totò Riina a entrare nei Boy Scout, capito? Però scusami, in fondo anche il sesso non è un dono di Dio, no? Assolutamente. E allora perché rinunciarci, no? Perché rinunciarci quando vai accanto a una persona con cui vorresti farlo perché l'ami? Perché? Ma sai, io non parlerei di rinuncia, perché... No, però prima del matrimonio, sì, è una rinuncia. Tu mi dicevi un obiettivo che mi pongo e quindi è una rinuncia che faccio come la dieta perché sto aspettando il momento del matrimonio. Perché aspettare se ci si vuole bene, visto che il sesso è un dono divino? Sì, credo che sia un dono divino, assolutamente, l'ha inventato Dio. E Dio dice che il suo creato è perfetto. Ma noi crediamo che... vissuto all'interno di un patto, il matrimonio abbia i suoi benefici, quindi io ti ripeto, io non andrò in giro a dire alle persone di fare o non fare sesso. Io posso parlare della scelta che ho fatto io e posso parlarti dei benefici che questa scelta ha avuto nella mia vita. Posso parlarti di tutte le ragazze e di tutte le conseguenze negative che abbiamo quando invece lo fanno con chiunque in qualsiasi momento. Vabbè, mo, senza arrivare agli eccessi, certo. Cioè non stiamo parlando, cioè mo, capisco che ti ho portato l'esempio di uno dipendente dal sesso, un maniaco sessuale, ma io non parlo degli eccessi, no? Perché si può essere, no? Dipendenti dalle sigarette, dalla droga, dal sesso, dall'alcol, no? E effettivamente tu questi vizi forse ce li hai tutti, sì, no? Scusate, devo andare di là che c'è una ragazza che mi aspetta in bagno. Dal cibo e da tutto. Però, insomma, noi parliamo di un caso normale. Se uno... Cioè, io francamente, se amo la mia ragazza, anzi approfitto per ricordare il dramma della mia ragazza. Cioè, io con la mia ragazza, se la amo, ci voglio andare pure a letto, no? Cioè, sì. Che male c'è? Ma io credo che intanto per me il preservativo per eccellenza si chiama matrimonio, perché comunque non hai... fin quando sposi quella persona che sarà la persona giusta. Però, a parte questo, non dobbiamo dimenticare che chiaramente per noi è un discorso di fede. Noi amiamo Dio e... quindi vogliamo seguire i suoi principi, e perché sinceramente crediamo sia la cosa giusta per noi. Io posso amare una persona, ma io non ho la garanzia che con quella persona mi sposerò. E che oggi il problema qual è? Che la gente vuole la sessualità senza patto, e quindi a volte anche senza responsabilità. È vero che io amo quella persona, però sai, se non ho un patto, se non ho firmato, se non ho fatto un patto davanti a Dio, io non ci penserò 2-3 volte in più prima di lasciarla. E adesso che il patto, no, tu ce l'hai con tuo marito, no? Una volta che si scopre questa sessualità di coppia, quanto sesso fate? Cioè, tutto, dovete recuperare gli arretrati oppure siete sempre abbastanza sul tranquillo? Beh, sicuramente in viaggio di nozze si recupera gli arretrati. Ci dai che ci dai che ci dai, insomma. Beh, dai, voi cosa fareste dopo 2 anni e mezzo di astinenza? Dai, ci si diverte. Cioè, allora, per chi ci sta ascoltando, pagherei per farvi vedere la faccia e l'espressione del maniaco sessuale Filippo Roma. Cioè, è una cosa incredibile. Una regolata. E Stefania, no, ha convince tanti giovani, no? Principalmente quelli del movimento. Qualcuno l'ha definita setta, è giusto definirla setta una vostra? No, assolutamente no. È un movimento in cui non c'è da firmare niente, non obblighiamo nessuno e neanche convinciamo nessuno. Si paga? Si paga per far parte di questo movimento? No, certo che no. È semplicemente è un'ideologia. Ma se io che non faccio parte di Purex, no? Mi volessi fidanzare con una di Purex, questa ragazza di Purex mi accetterebbe o no? Beh, dovresti chiederlo a lei, ma sarebbe difficilissimo perché... Vedi, allora è un po' assetta perché, cioè, no. Ti spiego perché. Tu vorrei avere rapporti sessuali. Beh, sì, una volta che mi fidanzo, una volta che trovo una donna. Una volta che trovo una disponibile... Però capisci perché non può funzionare? Avrete idee diverse. Da quello che ho capito, avete ragazzi molto giovani, no? Che sono nella fase ormonale, sì, più forte, no? Come fanno a resistere alla tempesta dei sensi? Scusi, invece di chiederlo a Stefi, che è tanto carina e tanto gentile, no? Chiediamolo direttamente a Gabri, che è un ragazzo giovane. Quanti anni ha Gabri? Mi dicono molto aitante. Porca miseria. Che quindi pratica, quindi potrebbe trombare come un pazzo. Sempre volgare. Diciamo che Gabri, volendo, potrebbe acchiappare tantissimo. Eppure pratica l'astinenza, giusto Gabri? Eccomi. Ciao Gabri, quanti anni hai? 21. 21 anni. Come riesci a non fare sesso? La formula magica. È una scelta. Semplicemente una scelta, cerchi vie alternative quando sai che ti stai avvicinando troppo alla tentazione, quindi al no, mister, adesso non ce la posso fare, ecco, non ti avvicini là. Scusa Gabri, tu sei vergine o hai fatto sesso prima di entrare in Purex? No, prima della scelta io ho avuto un'esperienza. E com'è stata? No, ma è stata una bella esperienza. Io, quando mi chiedono sempre così i miei amici, dico ragazzi, il sesso è bello, no? È una cosa stupenda, però... Ho scelto di preservarmi, no? Quando troverò una ragazza giusta, quando mi sposerò. Tu ora sei fidanzato? Io no, sono single. Scusa, i tuoi amici, visto che sei ventenne, dici la verità, ti pigliano un po' per matto? Sì, sì. Che ti dicono? Mi dicono, ma ti dovresti godere la vita, tu che sei giovane, dovresti andare, farlo come i conigli in sostanza. Ecco, qui il maniaco sessuale e non c'hanno tutti i torti, perché io, no, all'età tua, ad esempio, ero in piena astensione, ma... per scelta delle altre donne, non era una mia scelta individuale, e ne soffrivo, sinceramente. Guarda, io ti posso dire una cosa, che adesso, come dicevate voi prima, purtroppo è diventato, noi siamo quelli un po' fuori posto, che hanno scelto, ho fatto questa scelta qua, però è così bello poter aspettare, è così bello poter mantenere la cosa più bella che Dio ha creato per uomo e donna, perché è la cosa più bella che tu puoi condividere, la cosa più intima che tu hai con una donna, è bello tenerlo, Dio l'ha dato come dono di matrimonio, no? E adesso purtroppo lo sprecano in qualsiasi modo e lo usano come vogliono. Ma certo, perché se viene Belen da te, perché devi dire no? Se viene Belen da te... Viene da te, un po' ci prova e tu gli dici, no, ma io pratico l'astinenza sessuale, cara? No, non è che dico in questa forma qua, però dico, guarda, non sono il tipo facile. Te la dici pure un po'. È capitato l'insistenza, però... No, ti capisco, perché è la cosa che capita spesso anche a me, cioè quando... Quando una ci prova con me, io dico no, però non facciamo che facciamo sesso subito, perché si finirebbe con rovinare tutto, non bruciamo le tappe. Quindi tu dici veramente, sei serio, dici no, però non sono un tipo facile? Sì. Ma non pensi che così non riuscire mai a fidanzarti? Perché parliamoci chiaro, oggi come oggi le ragazze giovani giustamente vogliono fare l'amore con il proprio fidanzato. Non ti sembra un po' difficile arrivare a una situazione del genere? No, ci sono tante ragazze. È vero, ci sono... ragazze, no, ha ragione Gabri, che scelgono l'astinenza sessuale nonostante la possibilità di avere un fidanzato e quindi di fare sesso, come Gabriella, giusto Gabri? Eccomi, sono qua. Ciao, quanti anni hai tu? Io ho 24 anni. Giovanissima, e anche tu in piena astinenza sessuale? Sì, Purex. Senti, sei fidanzata attualmente? Sì, sono fidanzata. Da quanto tempo? Da quasi 4 anni. Quindi non ci puoi provare assolutamente. No. E da 4 anni che non lo fai? O da più? Da circa 3 anni. Ah, il primo anno almeno qualcosa ti hai fatto? Allora, io credo che se per fare una scelta del genere si deve farne in due. Se una persona non è d'accordo e non ha lo stesso principio, non funziona la relazione. Ecco. Noi Io l'ho lasciato, ho detto guarda, dopo non sta funzionando perché non abbiamo gli stessi pensieri, gli stessi principi, anche lo stesso obiettivo, no? E certo. Allora ci siamo lasciati, sì. E dopo un po' di tempo lui era in una discoteca, stava anche, secondo me, sperando di trovare un'altra ragazza. No, cosa te lo fa pensare? No, lui ama la musica. E lì ha conosciuto un ragazzo che gli ha parlato di Dio, ed è stato molto molto bello perché lui ha veramente... ha capito che Dio lo stava cercando, ecco. E dopo è venuto da me e ha detto guarda, io credo che c'è un Dio, che esiste qualcuno che veramente mi ama, io voglio conoscerlo, torniamo insieme. È creata in noi un'intimità che va oltre l'intimità sessuale, che è il dialogo, la preghiera, lo stare con tutti i valori che certo. Filippo non condivide perché è un becero maniaco. Però, insomma, alla fine hanno fatto crescere il vostro rapporto, giusto? Certo, certo. Oggi lui mi ha chiesto anche di sposarlo. Così finalmente... applauso! Finalmente faranno l'amore. In esclusiva... Vedi, sempre là va a finire. Grazie. Ciao. E anche per oggi è tutto, Filippo. Anche per oggi è stato un dispiacere stare con te, Umberto. Salutiamo i nostri amici. Che carino che sei. Salutiamo i nostri amici. Appuntamento alla prossima puntata, sempre qui. Da Radio 24, i Fuori Posto, Filippo Roma e Umberto Alezio. Ciao, grazie. Ciao.